Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Non la vediamo, ma possiamo sentirla. Allora cerchiamo di farlo prima che si faccia sentire lei, perché è paziente, ma imprevedibile. All'improvviso si blocca e ci presenta il conto. E noi lì a chiederci la ragione. Un colpo d'aria, la valigia, il materasso, lo stress, un colpo di tosse, uno starnuto, un lungo viaggio in macchina. Ditemi voi se e in quale occasione, per quale ragione la vostra schiena si lamenta o si è lamentata. 800 24 00 24, un numero verde per mantenerla in forma. Ci aiuta oggi il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno dottor Respizzi, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, grazie. Dottor Respizzi, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Non ci rendiamo conto a quante sollecitazioni sottoponiamo alla nostra schiena. Provi a darcene un'idea lei che di schiene se ne intende. In effetti devo dire che gli ambulatori di riabilitazione pensi che circa il 60-70% dei pazienti hanno problemi di schiena, quelli che si presentano nei nostri ambulatori, quindi è una patologia molto diffusa, si dice che addirittura l'80% delle persone almeno una volta nella vita hanno un episodio di lombalgia e questo è legato all'evoluzione della nostra specie. Noi se ci confrontiamo con le nostre cugine scimmie e pensiamo come cammina una scimmia, abbiamo fatto una scelta evolutiva molto importante migliaia di anni fa, ci siamo messi su due zampe, abbiamo deciso che avevamo bisogno delle mani, di muoverci in una maniera diversa e quindi la nostra colonna da orizzontale improvvisamente è diventata verticale. Questo ha cambiato proprio la meccanica, abbiamo cambiato la postura, ha costretto degli adattamenti del nostro organismo e tutto questo si è svolto naturalmente migliaia di anni. E adesso ci dà l'opportunità di avere una struttura molto robusta, molto elastica, che è la colonna, nella quale passa il midollo, quindi è una cosa molto delicata, che però ci fa un po' pagare il conto esattamente come diceva lei. Proprio perché questa scelta evoluzionistica ci ha dato mille vantaggi, poi immagino che se ne parlerà, ma comunque a me ha cambiato le sollecitazioni sulla schiena, sui dischi intervertebrali in particolare. E rimane lì, dietro. Noi non possiamo vederla, ma possiamo sentirla. Come ci insegna Tite Togni, insegnante di yoga certificata Iyengar. Tite, ciao, bentornata. Namaskar. Senti, possiamo provare a sentire la nostra schiena? Sì, è il mezzo più... Noi siamo come San Tommaso, finché non tocchiamo o non sentiamo forte, non ci rendiamo conto spesso, perché abbiamo altro da fare. Per cui ci riduciamo sempre a sentire in realtà quella che per lo yoga è la parte più sacra del corpo, che è la colonna vertebrale, la sentiamo solo quando urla. E questo non è bello, no. Non è neanche culturalmente avanzato. Allora bisogna fare in modo di ricominciare a sentire le parti della schiena e a sentire, cioè a rivisitare le curvature fisiologiche della schiena, perché la schiena, la colonna vertebrale non è un palo, è composta da curvature fisiologiche tenute tali da muscoli, tanti, tantissimi, lungo tutta la colonna vertebrale e anche orizzontalmente, e tutti devono lavorare insieme, okay? Non ce ne deve essere uno più debole dell'altro. Quindi è l'unione che fa la forza e fa la schiena fa sana. La forza. Dici molto bene, perché yoga è una parola sanscrita che viene dal sanscrito e significa proprio unione. Comunque, veniamo a noi, come fare? Bisogna sentirsela, perché non la possiamo vedere. Certo. E quindi lo possiamo fare, per esempio, persino quando siamo in macchina. Quando siamo in macchina con la schiena allo schienale, sì, facciamo ogni tanto, facciamo un check e andiamo a sentire quella che è la zona, infatti, più dolorante sempre in chi soffre di mal di schiena, la zona lombare. Facciamo un check respirando e stando lì magari a un semaforo, diciamo: ma la nostra zona lombare dov'è? È staccata dallo schienale o è contro lo schienale? La bella notizia è che se è staccata dallo schienale non state facendo la cosa sbagliata, state facendo la cosa perfettamente giusta. Evviva! Ogni tanto! Perché è concava, però vi accorgerete che molto spesso invece la zona lombare come si spianca indietro e va a finire contro lo schienale. E questo vuol dire che ci sono dei muscoli che si sono indeboliti ed altri invece che si sono contratti, hanno modificato la curvatura fisiologica. Quindi questo semplice test possiamo farlo anche quando siamo seduti e stiamo guidando, fermi ad un semaforo, oppure con la nostra sedia della scrivania. Ancora meglio, perché bisogna lavorare. È paradossale, perché quando invece faccio fare l'esperimento, per esempio, nelle posizioni supine, cioè da sdraiati, uno si immagina che per il peso del corpo la zona lombare vada giù. E quindi uno pensa che perché è sdraiato la zona lombare vada per terra. Invece no, perché la curvatura fisiologica è tenuta insieme dai muscoli e anche se sono sdraiato dovrei sentire una bella zona cava, cioè spazio nella zona lombare tra dottor il Respizzi, e la schiena. Scusami, ti ho interrotto, Tite. Dottor Respizzi, quindi viva le curve. Assolutamente sì, sono molto d'accordo con quanto ha appena detto Tite, perché il vantaggio meccanico di avere queste quattro curve, quindi una rientranza dove c'è il collo, un po' di gobba a livello dorsale, un'ulteriore rientranza a livello lombare, e rende molto vantaggioso dal punto di vista meccanico la funzione della nostra colonna, che sennò sarebbe una colonna corinzia rigida, mentre invece questa caratteristica eccezionale dal punto di vista meccanico distribuisce meglio i carichi, sopporta meglio i carichi e quindi è assolutamente giusto che noi rispettiamo le curvature. Naturalmente gli eccessi sono ovviamente la cosa sbagliata. Assolutamente. Adesso le automobili, col test che ha appena consigliato, ovviamente ci sono molte automobili che hanno la regolazione del sedile, no? E ad esempio noi consigliamo spesso, nella parte dello schienale, di utilizzare il supporto che spinge a livello lombare. Quindi magari uno dice, ma sta cosa qua mi dà fastidio che mi spinge qua dietro, preferisco invece stare all'altra parte, addirittura in cifosi dorsale, quindi con la curva girata dall'altra parte. Invece è sbagliato, è giusto che ci sia una postura sempre in lordosi, quindi questi supporti che ci sono nei sedili aiutano, sono molto vantaggiosi. Sì. Giorgio ci chiama da Verona, 800 24 00 24. Eccoli qua i miei ascoltatori, benvenuto Giorgio. Buongiorno. Mal di schiena da utilizzo del computer, cioè utilizzo prolungato del computer provoca delle posizioni, soprattutto a casa, un po' strane, e quindi niente, spesso bisogna interrompere, cioè devo interrompere per problemi di schiena, cioè. Allora Tite, possiamo suggerire a Giorgio e ai tanti ascoltatori che si ritrovano un po' nella sua stessa situazione, me per prima, un esercizio quando siamo, voi spesso suggerite dovete sgranchirvi le gambe, ne abbiamo parlato anche ieri con la dottoressa Lidia Rotavender per la circolazione, ma anche la nostra schiena è fatta per muoversi, poi abbiamo anche le altre due zampine libere, perché da quando noi siamo diventati bipedi abbiamo forse tanti svantaggi, ma numerosi vantaggi. Possiamo guardare in avanti, guardare al futuro, guardare il cielo, e questo è già ricaricante, soprattutto avere quelle due zampine libere che aiutano proprio a mantenere sana la nostra schiena. Quindi a Giorgio, quali consigli possiamo dare? Un esercizio di Tite Togni. È un esercizio antichissimo dello yoga in realtà. Comunque per mobilizzare, come dici tu giustamente, la colonna vertebrale, c'è tutto un fantastico settore dello yoga, sono le torsioni. Sì. Quindi le si possono fare anche da seduti, se sono stanco, anzi molto spesso sono stanco con gli occhi, voglio staccare un attimo dalla scrivania, rimango seduto, piedi a terra e uso le mani e le braccia per girare la colonna vertebrale, quindi rimango fermo dove sono con il bacino, sì, tramite l'uso delle gambe. E invece comincio a girare e a mettere le mani, se riesco, anche a un muro che ho di fianco, e spingendo via il muro mando indietro le spalle e intanto continuo a girare, girare, girare con tutta la colonna fino a quando riesco a vedere dietro. E questo da una parte e poi dall'altra. E questo dall'altro, per sciogliersi. Monia, dalla provincia di Pesaro, 800 24 00 24, consigli per la nostra schiena, la vogliamo portare in vacanze in piena forma e mantenerla tale. Benvenuto e buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Io volevo chiedere al professore, perché pratico taekwondo da diversi anni, e anche io ogni tanto ovviamente sento qualche dolore nella parte finale comunque della colonna vertebrale, nella schiena, nella lombaggine. E finito da ogni allenamento uso la panca di inversione. Sì. Quella panca che si attacca poi per i piedi e si stira, in teoria dovrebbe stirare la schiena, no? Sì, allunga, un allungamento abbastanza significativo. Perché comunque quando poi lo faccio sta meglio. La schiena, sì, la sento molto più. Come posso, non la sento più pesante, non la sento più compressa. Leggera, diciamo leggera. Sì, più leggera. Più leggera. Dottor Respizzi, la panca di inversione funziona? Dunque, prima di utilizzare uno strumento che può agire sul nostro organismo è sempre meglio accertarsi bene che non ci siano fattori particolari o controindicazioni. Sì. Se abbiamo escluso questo, che mi sembra la cosa più importante, mi sembra anche che la persona, per quello che descrive, non abbia particolari problemi, sicuramente sì. Perché? Perché quando noi stiamo in piedi e pratichiamo un'attività motoria, uno sport anche a livello agonistico, creiamo delle compressioni e delle torsioni violente della nostra schiena, che spesso sono oltre le condizioni fisiologiche, no? Proviamo a immaginare cosa succede a un giocatore di volley che estende la schiena violentemente, la torce, si ruota, eccetera. E ci schiacciamo, quindi ci comprimiamo. I muscoli posteriori della schiena, soprattutto i lombari e i dorsali, quindi si contraggono per difesa. Allora questi strumenti, o anche lo stretching fatto per terra, con delle catene, con delle posizioni dell'educazione posturale, servono ad allungare i muscoli e quindi fare in modo che questi muscoli che stanno lamentandosi, che stanno urlando perché sono molto contratti, dicono: oh bravo, bene, stirami un po' che sto un pochino meglio. E quindi l'azione vera e propria è quella di allungare i muscoli e fare in modo che le tensioni si riducano e quindi il dolore. Tite, anche ci sono tanti esercizi, tante posizioni yoga che aiutano ad allungare i muscoli, ad aprire. Sì. Certo, è proprio il cuore dello yoga, è l'allungamento insieme al potenziamento dei muscoli corrispettivi nel respiro. Tite, io volevo rispondere ai nostri ascoltatori che mi stanno scrivendo al 349-238-6666, ho già colto 4 messaggi, del mal di schiena di chi corre, mi scrivono, ecco, tu che ti occupi, questo aspettiamo. È inevitabile, bisogna muoverci, il movimento ci fa bene, ci mantiene in forma, in salute, ma ci sono anche gli acciacchi di un movimento che magari è eseguito senza tutte le dovute attenzioni. E il maratoneta paga spesso con un mal di schiena. Che cosa si può fare? Allora, non spessissimo, perché ci sono tanti altri acciacchi, però effettivamente c'è anche il mal di schiena di chi ovviamente corre, vuol dire usa troppo la parte inferiore della colonna vertebrale e non fa un lavoro complementare con la parte superiore. Allora, come riportare equilibrio nel lavoro, cioè tra gambe e braccia e tra parte superiore e inferiore della schiena, con quella che lo stesso mio maestro Iyengar definisce la posizione in assoluto migliore per chi corre, il cane a testa giù, la posizione che chiamo io prezzemolo dello yoga. Prezzemolo dello yoga. Perché c'è sempre, la si fa tra una posizione impegnativa e l'altra, sì. La si fa nel saluto al sole, ma cos'è? È una semplicissima, è la forma più semplice di posizione già anche invertita, no? Capovolta. Anziché usare una panca di inversione, il cane a testa giù utilizza, che è la posizione che poi ho messo online, quindi è visitabile da tutti, mani appoggiate a terra, piedi appoggiati a terra, una V, il bacino verso il soffitto, e spingere contemporaneamente con mani e piedi, allungando così, estendendo le braccia e le gambe nello stesso tempo, e il risultato è che per la legge meccanica e fisica per cui la colonna vertebrale riceve l'azione dagli arti, sì. Questa spinta da terra delle mani e dei piedi contemporaneamente fa sì che la colonna vertebrale si allunghi in direzione, cioè abbia un'azione opposta a quella della corsa, si allunghi dal basso verso l'alto. Quindi ricordatevi il prezzemolo dello yoga, alias posizione del cane con la testa in cane giù. Cane a testa giù, perché c'è anche il cane a testa su. Ma è questo il cane a testa giù. Noi oggi cane a testa in giù. Grazie a Tite Togni per essere stata grazie con noi. Un abbraccio, a prestissimo. 3 mesi dopo, Fantozzi, di fronte all'immagine dell'inizio di un tragico declino fisico, decise di dimagrire. Dopo 90 anni di vita sedentaria, la sua parola d'ordine fu: moto, moto, dovrei fare del moto. Porca miseria, guarda come mi sono ridotto. Non entro più nei vestiti, non entro. Sì, ma con cautela, Ugo, con prudenza, la tua età. Ma che prudenza, ma che età? Pina! Eh? Il colpo della strega! Oh, santo cielo, Ughino, ho appena finito di dirtelo. Oddio, mi sono bloccato. Dove ti fa male? La schiena. Qui? Sì, hai. Santo di Ughino, lo sport non lo puoi più fare. E poi a me piace anche così. Ughini, chiamate 800 24 00 24 a chi non è capitato di rimanere bloccato proprio da un movimento, magari cercando di fare attività sportiva. Dottor Respizzi, se l'inattività nuoce, non sempre l'attività giova alla nostra schiena. Insomma, quando parliamo di sport cerchiamo di capire per bene quali e come praticarlo. Io inizierei dal nuoto. Io direi che quanto ha descritto bene Villaggio è proprio pensavo... cosa da non fare, è proprio la cosa da non fare. Partire, scatenarsi e pensare di poter fare delle attività che si facevano magari 20 anni prima. Allora, partendo da questo presupposto, il nuoto è perfetto perché è un'attività molto tranquilla, è un'attività poco sollecitante e soprattutto è un'attività che noi svolgiamo in orizzontale, certo. Galleggia. Quindi la nostra schiena è bella allungata, non ha dei sovraccarichi particolari, non ci sono dei movimenti torsionali difficili o molto impegnativi, anche perché immagino che i nostri ascoltatori non facciano delle pratiche molto violente, ad esempio il delfino, penso che siano 2 o 3 italiani che sappiano farlo bene, quindi sconsigliando ad esempio la pratica del delfino, la rana con cautela, lo stile libero e il dorso sicuramente vanno molto bene perché allungano la colonna, ci fanno galleggiare nell'acqua, quindi nuoto sì. Nuoto promosso, saliamo in sella. Dunque, l'utilizzo dell'equitazione sostanzialmente è una pratica molto impegnativa per la colonna. È chiaro che se io faccio la passeggiata durante le vacanze estive in Dolomiti e mi portano in giro 2 all'ora non succede niente. Ma se decido di utilizzare un cavallo in maniera più intensa, soprattutto se il cavallo lo faccio galoppare, devo avere ottima muscolatura, sia addominale che dorsale che lombare. Quindi è una cosa, diciamo, riservata a persone che hanno una buona competenza motoria e soprattutto un buon tono muscolare della colonna. Dalla sella al sellino, le 2 ruote. La bici direi che non c'è nessun particolare problema, nel caso il vantaggio è di avere il peso del corpo appoggiato sul sellino, la maggior parte del peso del corpo, quindi un ottimo lavoro per gli arti inferiori, non in sovraccarico, ho appoggiato le mani sul manubrio e quindi di fatto ritorno quadrupede, utilizzo anche le zampe superiori in questo caso per stare appoggiato e quindi distribuire meglio il carico sulla colonna, quindi bici promossa. E a proposito di zampe superiori, ne usiamo una per giocare a tennis. Il tennis è uno sport abbastanza pericoloso per la schiena, proprio perché intanto è asimmetrico, perché si usa un arto solo, un arto superiore solo, e soprattutto perché se uno gioca in maniera intensa comporta violente rotazioni della colonna o estensioni della colonna. E questo è sicuramente molto pericoloso se io ho già di fondo qualche difficoltà della mia colonna, tipo le famose discopatie oppure un'iniziale artrosi. Quindi man mano che vanno avanti gli anni, ahimè, il tennis diventa abbastanza difficile da praticare. Quindi promosso con riserva. Un po' rimandato. Magda, per l'amor di Dio, fermati! Ma scusa Furio, ma che cosa ho fatto? No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così. Quando compi queste operazioni devi sempre tenere presente di dover comporre un mosaico. Ogni cosa deve combaciare con l'altra. Deve essere come un puzzle, né più e né meno. Senti tesoro, allora vediamo un po'. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Sì. Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Sì. Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Sì. Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino. Sì. Perfetto. Vacanze uguale partenze, viaggi, spostamenti, quindi valigie, ci tocca farle e trasportarle. Ci aiuta il dottor Michele Romano, non a trasportarle, naturalmente. Buongiorno, dottor Romano. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ma a capire come maneggiarle, il dottor Michele Romano è fisioterapista dell'Istituto Isico. Allora, dottore, consigli salvaschiena dalla valigia al materasso? Penso anche però al materassino, ai lettini, alle sdraio che noi utilizzeremo magari in spiaggia per rilassarci e prendere un po' il sole, ma partiamo. Iniziamo dalle valigie e dagli zaini. Valigie meglio con le ruote. Naturalmente, se possibile, sicuramente molto meglio con le ruote. C'è solo una piccola considerazione da fare rispetto a questo strumento. Quando ci sono da fare quando c'è da superare un piccolo ostacolo, tipo un gradino oppure qualche avvallamento, per esperienza diretta ho sentito di alcuni pazienti che fanno lo sforzo usando la maniglia telescopica per superare il gradino. Questo è un errore, perché la colonna in questa situazione viene sottoposta ad uno sforzo importante, quindi se si deve superare qualche piccolo ostacolo con una valigia con le ruote, fermarsi un attimo e afferrarla con la maniglia per tirarla su. Questa come indicazione generale. Sì, mentre per gli zaini, per chi parte fortunato con lo zaino in spalle? Per gli zaini la cosa sicuramente da considerare è la scelta di uno zaino ergonomico, quindi costruito secondo corrette indicazioni tecnologiche. L'altra è quella sicuramente di evitare per quanto possibile di caricarlo eccessivamente, quindi di mettere l'indispensabile all'interno dello zaino. Arriviamo a destinazione. Consigli per le persone che affronteranno un lungo viaggio in macchina? Ne abbiamo dati in questi giorni. Abbiamo detto: ogni tanto fermatevi, sgranchitevi le gambe, idratatevi, attenzione a come mettete la schiena. Un ascoltatore mi suggerisce naturalmente che le macchine, gli automobili hanno sedili ergonomici e quindi che di questa attenzione non ce n'è bisogno, ma sicuramente, dottor Romano, qualche consiglio in più lei è in grado di darcelo. Ritornando alle valigie e quindi al momento in cui vengono caricati in pratica i bauli, un consiglio che vale la pena sicuramente dare è quello di pensare un attimo prima quello che si fa. La maggior parte dei problemi così subitanei alla schiena sono legati a sforzi improvvisi effettuati con leggerezza, quindi prima di caricare la valigia, pensare un attimo a dove metterla e effettuare lo sforzo di caricamento con la dovuta calma. Questo sia per caricare che per scaricare. Assolutamente. In genere i problemi più grossi ci sono quando si parte, perché si è nell'euforia della partenza e la maggior parte delle persone effettuano questi sforzi con non troppa prudenza. In genere, al contrario, quando si torna, un po' la depressione post vacanza ci induce a fare cose con più calma. Quindi, perché non vogliamo tornare, vero, dottor Romano? Esatto. Per quel che riguarda il viaggio, invece, sì. Le indicazioni che diceva rispetto alle soste sono sicuramente la cosa più importante. Soste regolari, per quanto possibile, anche lì quando si va in vacanza, evitare la fretta di arrivare, quindi programmare qualche piccola sosta almeno ogni paio d'ore per qualche minuto, sistemare bene i sedili perché i disturbi da viaggio sono a carico della colonna lombare, ma delle volte anche delle spalle, della testa, quindi una buona posizione del sedile rispetto al volante che consenta di avere le braccia rilassate, non tese, è un'altra cosa sicuramente da considerare. L'utilizzo poi del supporto ergonomico, quindi del supporto lombare che alcune automobili hanno già, è da considerare caso per caso, nel senso che non in tutte le situazioni l'utilizzo di un supporto lombare è gradito alla persona. Sarebbe necessario regolarlo in funzione delle proprie necessità. Certo. Abbiamo in linea con noi Raffaele, che ci chiama dalla provincia di Potenza, e subito dopo Chiara da Monza. Raffaele, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, premetto che ho 41 anni, gioco a pallavolo quanto 14 anni. Gioco a pallavolo, adesso faccio pure mountain bike, qualche volta faccio pure nuoto, solo stile e dorso, come diceva prima il dottore. Però nonostante ciò, nonostante cerco di rinforzare gli addominali, la parte bassa, anche lombare, ultimamente ho dei dolori, specialmente quando cammino, nel gluteo sinistro, e che il dolore prolunga anche per la coscia posteriore sinistra. Non riesco a togliere questo dolore. Cosa posso fare? Cosa può essere? Ammetto che ho delle protrusioni discali accertate con una risonanza. Chiara, buongiorno da Monza. Sì, buongiorno Nicoletta, è un piacere parlare con lei. Anche per me, grazie Chiara. Grazie. Allora, io sono una ragazza giovane, ho 26 anni e ho sempre praticato il nuoto, sono un'istruttrice e l'ho sempre praticato. Nonostante questo, negli ultimi 5 mesi ho avuto 2 episodi di colpo della strega. Quindi, insomma, tantissimo dolore. Il medico che mi ha visitato ha constatato che distribuisco male il peso sulla colonna, quindi sono sempre contratta e mi ha consigliato ginnastica ed esercizi specifici. Volevo sapere se avete da consigliarmi yoga oppure ginnastica posturale o qualcosa di particolare per alleviare un po' questa situazione. Grazie Chiara per averci chiamato. Dottor Respizzi, iniziamo ad occuparci di Raffaele. Il suo dolore cammina, scende dalla schiena al gluteo alla coscia. Esatto, questo è assolutamente l'aspetto interessante. Quello che descrive Raffaele è quella che noi medici chiamiamo la lomboscialgia, cioè una lombalgia alla quale si abbina un dolore che cammina appunto verso la coscia posteriore. È di solito l'indizio per segnalare una sofferenza di una radice nervosa e che potrebbe essere irritata da un disco degenerato, cosa che peraltro Raffaele ha anche dichiarato di avere già accertato dal punto di vista degli esami diagnostici. Quindi qui è tutto un altro mondo, non stiamo più parlando della lombalgia cosiddetta benigna, in cui non ci sono delle alterazioni strutturali del nostro organismo, della nostra colonna, molto evidenti. Quello che consiglio a Raffaele è di indagare in maniera approfondita e in questo caso considerarsi non una persona che può fare del fai da te, ma una persona che deve sottoporsi a delle cure mediche precise in ambito riabilitativo per recuperare la funzionalità di questo nervo che dalla colonna va verso la coscia. Quindi è un altro mondo. Un altro mondo, un mondo in cui però bisogna vederci chiaro, e andiamo a Chiara da Monza, che ci racconta, sportiva, pratica nuoto, si confronta però con il colpo della strega. Ecco, il colpo della strega invece non è altro che un violentissimo crampo dei muscoli posteriori e quindi è una risposta paradossa, assurda, a delle condizioni che possiamo considerare quasi normali. I muscoli, per qualche strano motivo, che naturalmente è ancora ignoto, vanno incontro a un violentissimo spasmo e questo è molto doloroso, molto invalidante e ti lascia lì piegato in due. Dottor Romano, una legnata proprio nella certo schiena. Dottor Romano, lei ha qualche esercizio da suggerire per ridistribuire bene i carichi? Purtroppo non alla radio, perché come diceva giustamente il dottore poc'anzi, per quel che riguarda il primo ascoltatore, il disturbo che manifesta, quindi questa sciatica, può essere in qualche maniera trattato, oltre che con i farmaci o con altre terapie, anche con esercizi specifici. Sì. Gli stessi devono essere perfettamente e correttamente identificati sulla base della sintomatologia di certo singolo paziente e quindi dare indicazioni specifiche. Non si può, ma Chiara, come lei Chiara ci chiedeva, è suggerito lo yoga, il pilates, esercizi di allungamento, discipline che rimettono in equilibrio, dottor Romano? Per quel che riguarda, ma lo yoga penso che possa essere sicuramente una disciplina, una pratica adatta in una situazione come quella di Chiara, in cui le condizioni diciamo fisiche sembrano essere buone, perché è una persona assolutamente un atleta, quindi a Chiara, alle persone che come Chiara vogliono ridistribuire in modo equilibrato il peso, Pilates, dottor Respizzi, yoga, e sicuramente sono esercizi di allungamento che aiutano i muscoli della schiena a sorreggerla. Assolutamente. In questo caso io dico che se queste tecniche sono molto vantaggiose, attenzione solo una cosa, proprio per essere scrupolosi, sì. Quando una pratica è molto di moda, come ad esempio il Pilates, il rischio che l'istruttore non sia così istruito potrebbe essere uno scherzetto dietro l'angolo, per cui affidatevi assolutamente a persone, a istruttori competenti che abbiano sviluppato nella loro vita una qualità della tecnica di insegnamento molto adeguata. Anche in questo caso non essere superficiali e approfondire bene le competenze delle persone che dovranno trattare il nostro corpo. Ricevuto. Dottor Respizzi, resti con noi. Attenzioni e precauzioni per il benessere della nostra schiena. L'estate è un po' una stagione a rischio, ma se il dolore dovesse arrivare, non resta che affidarci al potere di una parolaccia. Dico una, però, è al momento buono. Sentiamo. Dolore fisico? Una parolaccia detta al momento giusto può aiutare a sopportarlo. È quanto emerge da una ricerca di Richard Stevens e Claudia Amland della School of Psychology dell'Università di Kiel, Regno Unito, pubblicata dal Journal of Pain. Per molte persone, dire parolacce è un rimedio a portata di mano ed efficace contro il dolore, spiegano gli autori. Tuttavia, se si abusa quotidianamente del linguaggio scurrile, la sua efficacia diminuisce. Stephens e Amland hanno valutato la resistenza al dolore chiedendo ai partecipanti allo studio di cercare di tenere il più possibile le mani nell'acqua ghiacciata mentre ripetevano parole neutre o parolacce. L'efficacia del linguaggio scurrile nell'attenuare il dolore è stata così dimostrata, ma solo in coloro che non sono soliti dire parolacce. Questi, infatti, ripetendo parole volgari, riuscivano a tenere le mani al freddo per 140 minuti, contro i 120 minuti totalizzati dalle persone abituate a imprecare abitualmente, fino a 60 volte al giorno, o da chi poteva pronunciare solo parole neutre. In base a questi risultati, i ricercatori ipotizzano che l'efficacia delle parolacce sia legata all'induzione di una risposta emotiva che genera un effetto analgesico. Mentre la zona cerebrale che controlla il linguaggio normale è nella parte esterna del cervello, sembrerebbe invece che le parolacce attivino zone più profonde, associate alle emozioni. Ma allora, se imprecare riduce la sensazione di dolore, allora il dolore non è una necessità ineluttabile. Ne parliamo col professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno anche agli ascoltatori. Sì, non è una necessità ineluttabile. Il nostro sistema nervoso ci pensa di suo a minimizzare il dolore. Sapete perché? Perché noi siamo dotati di un nucleo dotato di grandi funzioni diplomatiche, si chiama grigio periacqueduttale. Questo manda messaggi melliflui in periferia e di fronte ai lamenti, non so, una cattiva postura che porta dei dolori al cervello, dice state buone se potete. Ma vicino a lui c'è un nucleo molto più barricadero, si chiama RVM, una sigla difficile, e sono l'uno in lotta contro l'altro, ma in generale è pari e patta. Però se sto in condizioni di stress protratto posturale, pensiamo alla schiena di cui si è parlato oggi, ecco che questo nucleo diplomatico si sgonfia un po', prevale il nucleo barricadero e parte il dolore e la contrazione muscolare. Quindi, al di là delle nostre parolacce, un pochino la nostra fisiologia già ci aiuta di suo inconsapevolmente a minimizzare il dolore. Ma, professor Barbanti, allora cosa possiamo fare noi attivamente per non sentire questo dolore? Beh, si diceva un tempo canta che ti passa, oggi con la luce degli studi dovremmo dire impreca che ti passa. No, noi possiamo ingannare il dolore perché la sua strada dalla periferia al cervello è lunga e tortuosa ed è fatta di viottoli e non di autostrade. Quindi il dolore prima che arrivi alla corteccia cosiddetta somatosensoriale si ferma in tante stazioni con vie molto sottili. E allora incominciamo a dire che possiamo ingannarlo, lo sappiamo tutti, atrofinandoci. Cosa succede? Se noi abbiamo un dolore, portiamo la mano sulla parte colpita e la strisciamo, in questa maniera quella sensazione tattile non passa per il biottolo, passa per un'autostrada, arriva al cervello prima lei del dolore ed ecco che lo sentiamo di meno. I massaggi hanno un effetto rilassante ma anche un effetto analgesico proprio per questo. Ma quando arriva il dolore alla corteccia cerebrale non è altro che c'è posta per te, lì cominciano i guai, perché da quella zona il cervello lo smista all'amigdala che dà la paura del dolore, all'ippocampo che dà la memoria del dolore e all'ipotalamo che dà la reazione viscerale, il pallore del dolore. Cosa possiamo fare? Beh, creiamo emozioni forti, urlare e strillare. Avete mai visto cosa fa una persona quando fa una doccia ghiacciata al mare? Non riesce a smettere di urlare. Beh, sta creando una reazione emotiva, chiodo, schiaccia, chiodo, che impedisce al dolore di arrivare alla zona dell'amigdala, né più né meno che una parolaccia ben calibrata, insomma non si dovrebbe dire. Per il resto memoria e reazioni viscerali vanno ingannate prevalentemente con messaggi positivi, rilassamento, biofeedback, e chi più ne ha più ne metta, certamente le tecniche di autocontrollo possono dare una buona mano, ma ricordiamoci, non è una realtà ineluttabile. E dall'agopuntura all'ipnosi, a questo straordinario studio, dimostriamo come sgambettare il dolore lungo la sua strada impervia non sia difficile. Grazie professor Barbanti per questi messaggi rassicuranti, fa anche rima, la saluto, la ringrazio, a presto, buonissima giornata. Arrivederci a voi. Vorrei parlare con voi di una ricerca che fa luce proprio sul colpo della strega. Ne parliamo oggi con il dottor Enrico Pola, aggregato alla divisione di chirurgia vertebrale al Policlinico Gemelli di Roma. Dottor Pola, buongiorno. Buongiorno. Allora, sarebbe una molecola che voi avete studiato, parlo voi perché è uno studio che avete fatto in collaborazione anche con altri centri americani, anche con la collaborazione del suo collega Aurelio Nastro del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'Università Cattolica. Ci tengo a citare tutte perché il lavoro d'equipe premia. Ma, dottor Pola, che cosa avete trovato? Ci sarebbe una molecola che... Dunque, c'è una molecola che si chiama appunto NFKB, questo strano nome, che si iperattiva, cioè aumenta di attività e di concentrazione all'interno dei dischi intervertebrali, cioè di quei cuscinetti che sono interposti tra le vertebre che permettono a noi di supportare i carichi e quindi di evitare appunto il mal di schiena. E quando questa molecola si iperattiva, il disco inizia a degenerare e a invecchiare più rapidamente. E questa per la prima volta è stato spiegato appunto questo meccanismo, che è un meccanismo di invecchiamento e degenerazione del disco intervertebrale, quindi di questi cuscinetti della colonna vertebrale, e apre tante prospettive per ipotesi di trattamento e di prevenzione dell'invecchiamento dei dischi e quindi della colonna vertebrale. Quindi, dottor Pola, in futuro ci sarebbe la possibilità, ci sarà la possibilità di far sì che la nostra colonna vertebrale invecchi più lentamente. Esatto, esattamente. Infatti anche l'esperimento era su degli animali, una sindrome progeroide si chiama, cioè degli animali che invecchiano più rapidamente, e utilizzando una molecola, quindi un farmaco che si chiama NBD e che è in grado di bloccare l'altra molecola, quella che causa l'invecchiamento del disco, siamo riusciti a rallentare, in alcuni casi a bloccare del tutto l'invecchiamento e la degenerazione del disco e quindi della colonna. Chiaramente è un farmaco ancora sperimentale, però tutte le sperimentazioni in vivo è stata molto molto efficace, e questo in futuro permetterà di poter prevenire, soprattutto in quei soggetti che eseguono lavori pesanti, certo, che hanno degli stress fisici che possono causare un invecchiamento più precoce, più rapido della colonna vertebrale. Quindi, come si dice, incrociamo le dita, dottor Pola. Esatto. Grazie al dottor Pola, grazie anche al dottor Stefano Respizzi che ci ha accompagnato in questa puntata, voi che siete intervenuti, Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Come sempre vi auguro una buonissima giornata, noi comunque siamo qui, potete scriverci e potete anche venirci a trovare domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.